E penso che sia gravissima questa censura a Vauro per vari motivi. Innanzitutto nel merito, io personalmente non trovo condivisibile l'accusa di avere offeso dei morti. Era una vignetta che offendeva, colpiva evidentemente dei vivi, in particolare questo piano casa che potrebbe, così come finora, fare ulteriori danni. E comunque qui siamo su una posizione opinabile. Ancora più grave è il fatto che venga colpita la satira che di per sé, diciamo, può essere comunque discutibile, ma in ogni caso un'espressione assolutamente importante e indispensabile di libertà di stampa. Infine devo dire che Vauro non è stato mai tenero con qualcuno, né a destra ma neanche a sinistra o al centro, quindi è un'espressione di libero pensiero che viene meno. Infine mi sembra particolarmente grave il fatto che il direttore generale si sia mosso addirittura prima del consiglio di amministrazione e dello stesso presidente della RAI, con cui sembra che non abbia concordato la posizione. Sarà molto importante vedere che posizione prenderà Paolo Garimberti. Io mi auguro che sia una posizione evidentemente diversa da quella del direttore generale, sul piano di una pressione politica. Ora, la libertà di stampa con la politica e gli schieramenti non dovrebbe avere niente a che spartire. Ce l'ha invece in Italia, è un fatto gravissimo, non accade in nessun altro paese occidentale. Penso che siamo all'inizio di un'offensiva berlusconiana da parte della maggioranza molto pesante, che potrebbe diventare ancora più grave del famoso editto bulgaro, perché contemporaneamente si censura in qualche modo Santoro e anche lo stesso Report, la cui trasmissione ultima sulla Social Card non è piaciuta al ministro Tremonti, e quindi adesso dovrà decidere il comitato etico. È una linea quindi di gravissimo attacco alla libertà di stampa, all'informazione, che depone estremamente male su questo nuovo periodo che si apre nel servizio pubblico. Credo che si debba cercare di resistere e di rispondere con tutte le possibilità che abbiamo.